Dunque, la lezione scorsa eravamo arrivati al letamento, giusto? Ecco, solo una piccola parentesi. La prossima settimana non ci sarà lezione, perché, come dicevo nel corso prima, sono fuori Torino per lavoro, di conseguenza non so bene a che ora arriverò e preferisco non farvi arrivare prima. Quindi, ricordatevi, il 18 non si viene, ci troviamo poi il 25. Ok. Non vai mica a fare un'altra cosa. Allora, la lezione scorsa abbiamo iniziato con crea struttura tabella e abbiamo inserito i di cosa abbiamo messo? I di contatore, forse, vero? Persona. E abbiamo scelto il contatore, poi nome testo, cognome testo e poi non ricordo. Eccetera. Va bene, allora iniziamo da qua. Allora, su questi tipi di dati, quindi sulle proprietà dei tipi di dati, io non mi ci soffermerò tantissimo per un semplice motivo. Avendoli già visto l'anno scorso, piuttosto io, se Bani gentilmente me lo ricorda, sì. La prossima settimana vi mando gli appunti dell'anno scorso sull'argomento. Generalmente non sto a ripeterli. In altre parole, nelle proprietà del campo, quello che si va a fare è personalizzare campo dopo campo e quindi ad andare a dettagliare le informazioni. Il tutto è finalizzato a fare in modo che l'utente abbia meno possibilità di andare ad inserire dei dati che non hanno senso. Ora, il caso più ampio è chiaramente è il campo di tipo testo. Perché nel campo di tipo, se io metto un campo di tipo testo con lunghezza 50, 60, 100, l'utente lì dentro ci può andare a scrivere tutto quello che vuole. Quindi se voi non volete far effettuare controlli in access, mettete un campo di tipo testo lungo 255 e non fate i controlli. O meglio, il computer non fa i controlli nel momento in cui l'utente va a inserire i dati. È chiaro bene questo concetto? Sì. Ma access, se voi lo impostate in questa maniera, diventa poi simile ad Excel. Perché se voi ci pensate, in una cella di Excel io, utente, posso andare a inserire quello che mi passa per la mente. Una data, un testo, un numero o quel che è. E allora nelle proprietà del campo in realtà mi servono per andare a rendere più fine i controlli che vado a fare. Come vi dicevo, la prossima settimana vi manderò la mail con l'elenco di queste cose. Ma, mi proporre Mani, la mail con le proprietà del campo, dove vi vado a denucleare un attimino quali sono le proprietà del campo, come si utilizzano. Per farvi giusto due esempietti, molto veloci, ma non state nello schedere perché ripeto vi farò poi uno schemino. Nel numero telefonico, se io metto numerico, ad esempio nel valido se, io gli posso andare a mettere un controllo del tipo. Supponiate che io voglio inserire lo stipendio dei dipendenti. Faccio parte dell'ufficio personale e so che i miei dipendenti guadagnano da 800 euro al mese a 6.000 euro i dirigenti. E allora nel valido 6 magari gli andrò a mettere maggiore o uguale di 800 e minore o uguale di 6000. In modo che l'utente, se va a mettere per errore 60.000 o 80, viene bloccato dal computer. Chiaro? Quindi magari questo esempio scrivetelo. Nel valido 6 di un numerico posso andargli a nel valido 6 di un campo numerico posso andargli a scrivere maggiore di 800 and minore di 6000 ed il programma andrà a verificare che l'utente che inserisce lo stipendio non vada a mettere un valore che sia fuori da questo range. Quando faremo poi le query andremo a sviluppare il discorso dell'end e dell'or. Per il momento prendetelo così com'è e poi lo svilupperemo nelle query. Ho già lì, ho scritto 60.000. Poi per esempio c'è tutto un discorso da fare nei campi di tipo testo sulla maschera di input. La maschera di input, ad esempio, se viene utilizzata per dei codici, mi serve per impostare l'esatta sequenza di lettere e numeri da mettere. La maschera di input, se viene usata per dei codici, serve per impostare l'esatta sequenza di lettere e numeri. Per spiegare in due parole, caso classico, codice fiscale. Il codice fiscale ha 6 lettere, 2 numeri, una lettera, 2 numeri, una lettera, 3 numeri, una lettera. Quindi c'è un'esatta sequenza di lettere e numeri. Allora nella maschera di input io gli vado a dire, guarda che le prime 6 sono lettere, seguite da 2 numeri, seguite da una lettera, seguite da 2 numeri e così via dicendo. È chiaro? Sì. Quindi la maschera di input semplicemente con delle istruzioni che vi manderò nella mail mi permette di impostare l'esatta sequenza dei numeri e lettere. Poi comunque su queste cose qua faremo degli esempi come vi dicevo più avanti e quindi avremo modo di ritornarci. Anche qua, siccome qua si parla di concetti, se la prossima lezione a seguito della mail che vi manderò qualcosa non è chiaro, chiedetemi tranquillamente, cioè non ho difficoltà a ripetere anche 10 volte. Ok, adesso voglio solo andare un po' veloce, perché giustamente la volta scorsa le persone che hanno già seguito l'anno scorso mi hanno detto ma è un po' più veloce e quindi saltiamo un po'. Allora, io tra l'altro questa settimana, lunedì mi sembra, ho mandato gli inviti alle persone che mi avevano dato il foglio. Mi sono arrivati? No, sì, grazie. No? Sì. Arrivata? Avete accettato? Non era difficile, no? Come... Ok. Allora, a chi è che non è arrivato e che mi ha dato l'indirizzo? Cazzo, io però no. Io non ho aperto, Non ho visto. L'ultimo non ho aperto. No, io l'ho mandata a lunedì, quindi... Va bene. Allora, solo un secondino. Quindi. Allora, mi interessa un meglio. Anton Scao. Anton Scao. SGA. Chi altro non lo non è arrivato? Io, però non ci va. Non è arrivato. Perché se si è scosso, non è arrivato. Ah, ecco. E vorrei che il sistema, no, pensavo... se lei deve aspettare il foglio, il sistema si accorge che c'era già... No, quello non l'avevo scritta. Di M, non lo so io, non lo so, sì. Di M, 51, chioccio, gmail, questo posto. Ok. Vabbè, allora noi la mangerò questa settimana, se riesco già stasera, altrimenti domani, e poi voi nel momento in cui accettate, vi arriverà poi la mail di conferma che siete iscritti. Da quel momento tutte le mail che io mando al gruppo le ricevete e ce le date. Okay. Perfetto. Allora, detto questo, facciamo degli esempi. Ecco, facciamo degli esempi, ad esempio, nella data di nascita. La data di nascita, per esempio, nel valido se, io ti posso andare a mettere dei limiti. Supponiamo che stia andando a lavorare con dei dipendenti. I dipendenti sicuramente avranno più di 18 anni. La data di limite non la mettiamo neanche, perché credo con gli ultimi governi non si sa nemmeno. E mettiamo di 1800, perché ormai è così. Comunque, senza fare dell'inutile ironia, nel valido se gli posso mettere maggiore o uguale del 1 gennaio 2011-18, quanto fa? 1992, giusto? And minore o uguale del 31-12, mettiamo un ipotetico 1930. Ora, questa è la stringa che, ad esempio, si può mettere in un valido se per una data. D'accordo? Sì, la data io la posso scrivere in 3-4 modi diversi, questo lo vedo nel formato. Nel formato io posso decidere che tipologia di data mettere, cioè come viene visualizzata, non tipologia di data. Okay? Io posso decidere che voglio visualizzarla così, quando la vado a inserire io metterò 19/2/2000 e lui me la metterà in questo formato qua. Okay? Però quella è solo una visualizzazione. Chiaro che in base a quello che vi manderò negli appuntini, in base anche alle prove che voi farete, vi verranno degli altri dubbi che vedremo poi di volta a volta insieme. Cioè, mi piacerebbe proprio instaurare un rapporto molto. Ho fatto questo perché, ho fatto l'altro perché. Ok. Ecco il numero di telefono. Se qualcuno di voi ci ha provato a casa, si sarà reso conto che, ad esempio, il numero di telefono, qual è il problema? Esatto. Allora, per esempio, chi ha messo il numero di cellulare non appariva tutto, perché diceva numero non valido. Ad esempio, se io vado a mettere 3 3 3 2 2 2 3 0 6, mi dice errore, valore non valido. Se io vado a mettere invece che il numero del cellulare, il numero telefonico 011 1 2 3 4 5, quello che succede è che lo 0 viene tagliato. D'accordo? Perché l'uno e perché l'altro? Allora, a questo punto, perché ho fatto il corso dell'anno scorso, non sono ricordo. Perché la prima cosa? Perché supera il valore delle... bisogna cambiare il tipo di dato che... Allora, non il tipo di dato, ma la dimensione del campo. Cioè, in questo caso, qua, nella dimensione del campo, signori, si vede fare queste cose, perché sono problemi che vi nasceranno anche voi, e così l'abbiamo vista. Allora, dei numeri telefonici, o comunque in altri numeri, può capitare che lui vi dica errore, valore non valido. Allora, in questi casi qua vuol dire solitamente che nelle proprietà la dimensione del campo non è adeguata. Ora, se io vado nell'help, sull'help, e gli vado a chiedere ad esempio quanto è grosso un intero lungo, eccolo qua. Allora, vedete che ci sono diversi tipi, l'intero, il decimale, eccetera, eccetera. Vabbè, purtroppo qua, non è in inglese, per fortuna. Allora, probabilmente, o si è scelto questo, che va da meno 32.000 a più 32.000, e già il numero di cellulare non ci sta, oppure si deve scegliere questo. 3, 4, 7, 7, 2, 6, 3, 0, 6. Che ci sta come cifra, ma non come valore, perché uno dei cellulari inizia da 3. E questo arriva solo fino a 2. È chiaro? Quindi in questi casi bisogna scegliere la voce dopo, decimal. La voce decimal in realtà sarebbe o precisione singola o precisione doppia. Quindi uno prova con la singola, se vede che in quel modo lì l'errore non viene più dato, va bene. Se vede che ancora non ci sta dentro, prova precisione doppia. Come fate a fare? No, ma già partendo dall'help. Sì, perché l'help in realtà non è in access soprattutto così friendly. Io qua sono andato nell'help, che è questo punto interrogativo, sì. E gli ho scritto intero lungo. Purtroppo l'help è veramente così, io sapevo che si stava parlando di tipi di dati SQL, ho cliccato qua, però mi rendo conto che non è assolutamente intuitivo. Sì, la cosa che io vi consiglio di volta in volta, più che sull'help dell'Access, andare su help di Google, andare su internet, scrivete intero lungo access e sicuramente trovate la cosa molto più velocemente. Ti mando poi un sito dove c'è tutti i corsi dell'app. Sì, volentieri. Il discorso, discorso sull'intero lungo. Allora, qua il discorso è questo, che tutti questi valori praticamente vanno da un range, vanno... mi permetto di inserire numeri in un determinato range, da negativo a positivo. Quindi, ad esempio, se io vado nei tipi di dati, vabbè, qua lo metto in inglese, quindi bisogna pazientare, però voglio dire, se uno vede il tiny int, tiny in inglese vuol dire piccolo, quindi l'intero piccolo va da 0 a 255. Quando è che può essere utile, ad esempio? Per i prefissi. Perché, non per i prefissi, ma per i prefissi telefonici, quindi 011, però non va neanche tanto bene, perché se c'è 0141 già non va bene. Però che ne so, se io ho necessità di inserire dei numeri che vadano da 0 a 255, sono sicuro che da lì non mi muovo, vado a mettere quello, di modo che se l'utente mette 256, il computer gli dice errore. Man mano che vado avanti, lui mi permette di inserire delle informazioni sempre più grosse. Quindi, ad esempio, i numeri reali vanno da meno 3,4 in 10 alla meno 45. Allora, E vuol dire, e la notazione matematica vuol dire elevato alla. Quindi 3,4 sarebbe per 10 elevato a meno 45. Quindi 0,45034. E poi è matematica proprio. Vuol dire 3,4 per 10 alla meno 45. 10 alla meno 45 vuol dire 45 zeri. No, io guardavo il 38, quindi E alla 30, alla, da 10 alla 38esima. Tra 3,4. Ah sì, ah, lì in quel caso è 10 alla 38esima, quindi 3,4 per 10 alla 38esima. Quindi vuol dire 3,4 con 38 zeri dopo. Se invece c'è meno 38 vuol dire 0,38034. Sono tutti decimali praticamente. Sono tutti decimali. Quindi sostanzialmente questo vuol dire che io posso scrivere 3 fino a 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fino a 38. Fino a 38 cifre sostanzialmente. Diciamo che come numeri, con numeri così grossi quel 38 uno lo può assimilare a 38 cifre, non è proprio vero, perché se già li metto 4 con 38 cifre dopo non me lo prende, ma 38 cifre sono già tante. Quindi banalmente uno può vederlo che lei è arrivata da 38 come se fosse a 38 cifre, un numero di 38 cifre. Meno 45 vuol dire che posso mettere 0 con 45 zeri e poi 1. Perfetto. Questi qua invece il numero intero, il piccolo intero e il decimale mi arrivano in questo range qua. Ecco che per esempio per uno stipendio, oltre nel valido se, lo posso andare ad associare con uno small int, perché tanto il mio stipendio non arriverà mai oltre 32.000 euro. Vabbè, non stiamo parlando di politici. Non arriverà mai oltre 32.000 euro al mese, di conseguenza posso anche utilizzare uno small int. D'accordo? Perfetto. Quindi nella mail che poi vi manderò vi andrò ad esplicitare quelle voci. E a casa provate a fare magari una tabella, magari vi darò anche un compitino di una tabella, non dico complessa, ma quantomeno articolata, con dei controlli da effettuare. Quindi controlli sullo stipendio, i controlli sulla data di nascita, il controllo sul numero di telefono. Ok? Benissimo. Ed eravamo arrivati a questo punto, d'accordo? Il passaggio successivo è andare a vedere le maschere. Servono per inserire dei dati anziché modificarli, anziché eliminarli, ok? In realtà vedremo poi un pochino più avanti che le maschere mi serviranno anche proprio per costruire una sorta di pannello dei comandi, ok? Per l'utente che andrà poi ad operarci sopra. Quindi, come si crea una maschera? Si va sul pulsante crea, sul menu crea, alla voce vedete che ci sono maschere. Ora qua cambia un pochino da office a office, quello che dovete cercare è la creazione guidata, delle maschere. Creazione guidata. Però voi state lavorando qua dentro, nelle maschere. Vedete che c'è questo menu a tendina e qua sotto c'è scritto creazione guidata. Sì, crea nell'Office 2007 è dentro altre maschere, però chi ha la versione fino al 2003 deve andare su maschere, nuovo, sì. Creazione guidata. Questo è un Office 2003. Sì. Allora, su... Il 2003. Sì, al 2003. Signore, purtroppo c'è un pasticcio con le versioni. Lo so, mi dispiace. La 2003 e l'XP io le chiamerò sempre 2003. Mm-hmm. Per il semplice motivo che è quella che ho usato per più tempo, per cui mi ricordo la 2003. Mm-hmm. La 2007 e la 2010 io le chiamo 2007. Per cortesia, nella prima pagina del vostro taccuino scrivetevela questa differenza, perché le varie versioni sono proprio diverse l'una dall'altra. Allora, nella versione 2007-2010 il meccanismo è questo qua. Nelle versioni precedenti bisogna andare su maschere, il pulsante nuovo e poi creazione di data. Qui come l'altro corso si può scaricare quello dell'anno scorso? No, non ci sono delle esperienze per l'anno scorso. Non so se non ci sono delle esperienze. Ci sono dei file audio che sono la registrazione del mio premier. Se lei... Esatto. Piuttosto mi manda una mail e io la scrivo il tempo. Perché faccio fatica a scrivere l'anno scorso. Mando la mia mail e mi manderete. Sì, mi dice sono lo studente del secondo corso, mi aggiunge al gruppo, io. Ok, se riesco a recuperare non ha senso. Va bene, grazie. Quindi dicevo, è chiaro la differenza. Anche lì, se magari avete la versione 2003 e non riuscite la singola cosa, mi mandate una mail e io vi dico come si fa. Per intenderci, la mia mail è vittorio.zuccala, senza l'accento, gmail.com. Quindi per chi non avesse la mia mail, scusi, Vittorio punto Zuccala, sì, sì, punto. Sì, sì, sì. E poi non ce ne sono più, gmail.com. sì, voi comunque provate a fare dei tentativi, perché se lo vedete da soli è meglio, se ci sbattete la testa da soli è meglio. Buonasera. Prego. Altrimenti mi mandate una mail e io vi dico un attimino i passaggi da fare. Allora, con la creazione guidata in realtà è abbastanza semplice. Perché? Perché lui vi chiede su quale tabella volete andare a fare la maschera. Quindi vi fa apparire, e questa è uguale indipendentemente dalla versione di Access che utilizzate. Scusate, il signore mi ha chiesto se questo era il corso di vini e formaggi. E io gli ho detto di sì, perché sembrava scherzasse. Non ci arriva fino a casa. Video formaggi? Video, formaggi. Video formaggi. Video formaggi. Video formaggi. Video formaggi. Video formaggi. Video formaggi. Ma scusa, ma tu gli dici sì che sei un po' più è una settimana pesante. È arrivato la fine. È arrivato su una mano che allora prese bene. Sorrido. Le guardiamo la vostra vita. Immagino. È piuttosto la prossima volta potrò provare a portare la mia via. I messaggi. Allora, comunque. Queste maschere sono comunque tutte uguali. Qua vi chiede quale tabella, quindi vi chiede qual è la tabella della quale volete andare a fare la maschera. Chiaramente qua di tabella ce n'è solo una, per cui se voi andate a cliccare lì sopra il vostro elenco non è nutrito, ma voi immaginatevi, come poi vi farò vedere più avanti, io creo 2-3 tabelle che metto in relazione fra di loro, lì dentro vi appariranno 2-3-4-5 tabelle, quindi vi appariranno tutte le tabelle. Ve lo faccio fare proprio adesso questo esercizio, perché di tabelle ce n'è solo una e così provate con una sola. Quindi vi chiede su quale tabella volete fare la maschera. Sotto vi dà i campi di quella tabella e a fianco, tramite il pulsante maggiore o doppio maggiore, maggiore vuol dire metti solo un campo, doppio maggiore metti di tutti, e chiaramente li potete riportare poi di là, vi chiede quali campi nella maschera. Quindi qua vi dice i campi della tabella. E lì vi chiede quali campi volete mettere nella maschera. Ora signori, questo è un passaggio piuttosto importante, non difficile concettualmente, ma importante. Perché? Perché una cosa che voi potete fare è andare a mettere anche solo uno o due campi. E anche l'obiezione che mi dovrebbe fare qualcuno è dire: perché mi potrebbe venire voglia di mettere solo uno o due campi? Perché, per esempio, in una rossa tabella, a seconda dell'utente per il quale io faccio quella tabella, gli posso dare la possibilità di operare solo su due campi, o su tutti, o su tre. Cioè, qua la filosofia è diversa dall'Excel, dove tutti possono fare tutto. Sì, è vero che esistono le protezioni delle celle, tutte queste varie qua. Ma comunque, in un file di Access, più o meno tutti possono fare tutto. Viceversa, in un file di Access, io posso. Immaginatevi il file del personale, con tutti i dati privati della persona, l'indirizzo, il telefono, sposato o meno, età, eccetera. Io magari, che so, devo dare la possibilità, faccio per dire, a colui che organizza i corsi di informatica per la mia azienda, di sapere solo nome, cognome e il reparto nel quale lavora. Allora, con questa persona io non andrò a fare una maschera dove ci sono tutti i dati, ma soltanto i dati che interessano a quella persona. È chiaro? Un magazziniere, ad esempio, io gli faccio la maschera del prodotto X anziché prodotto Y. Il magazziniere, cos'è che interessa sapere? Non tanto quanto costa il prodotto, perché ci sarà colui che fa gli ordini che andrà a inserire il costo dei prodotti, ma gli interessa dove è ubicato, la quantità, il colore e poche altre cose. È chiaro questo passaggio? Quindi attenzione, perché questo passaggio qua è importante, cioè questo passaggio vi dice, cioè vi permette di specificare la finalità della maschera. E nei primi esempi che faremo questa necessità non la sentirete, perché giustamente dite, boh, io metto tutto e non se ne parla più. Ma quando dovrete fare, magari, e ve lo auguro, perché potrebbe essere una bella esperienza, un database usato da più di una persona, ebbene, in quel caso, a seconda della persona alla quale do la maschera, vi potrò permettere di visualizzare solo alcuni dati, tutti i dati o altri. È chiaro? In questo caso, data la natura della maschera di prova, gli posso mettere tutti i dati. Ma se ci pensate bene, ID persona me lo posso anche risparmiare. Perché? Perché tanto ID persona è un contatore. Per cui se ci pensate bene, ID persona posso anche non metterlo. D'accordo? Ora, non mi soffermo sui passaggi successivi. Il passaggio dopo mi permette di scegliere una impaginazione, quindi segnatevi solo negli appunti che schiaccio avanti e vado avanti. Ecco, una cosa che qualcuno di voi che aveva fatto l'anno scorso mi ha richiesto, segnatevi solo questo, nel layout, vedete layout, alcuni di questi layout vi permettono di vedere più record in una maschera, altri vi permettono di vedere un record per volta. Adesso poi vi faccio degli esempi che vi risulterà più chiaro. Però scrivete negli appunti. Alcuni layout vi permettono di vedere più record per volta, altri un solo record per volta. Adesso vi farò due esempi e risulterà tutto più chiaro. Notate bene che io qua scelgo layout a colonne, ok? Così dopo vi faccio vedere un altro tipo di layout. Il pulsante avanti, non statevelo a scrivere, semplicemente provatelo a casa, vi permette di scegliere l'impaginazione, vedete i rigori che volete impostare. Alcune versioni saranno un po' più ricche, altre versioni saranno un po' più povere, comunque insomma vi permette di scegliere. L'ultimo passaggino è quello di scegliere un titolo da assegnare alla maschera. Io lo chiamerò persone, colonne, proprio per farvi vedere la differenza tra un layout e quello successivo. E schiaccio fine. Ecco che è apparsa la maschera persone colonne. La maschera persone colonne va ad inserire o a togliere aggiungere dei dati all'interno direttamente della tabella. Cioè io quello che faccio qua in realtà lo sto facendo dentro la tabella. Quindi metto Vittorio Zuccalà 333 444 555. Ecco. Vedete che era troppo lungo, giustamente mi è bloccato. Data di nascita 5 5. 2012 dai 90 e infatti si è rifiutato, ecco. No, vabbè, in realtà questa cosa qua mi serve perché vedete quello che vi dicevo prima, cioè io nel valido 6 gli ho detto che deve essere maggiore di 1992, vedete il valido 6 senza farlo apposta me lo sono beccato, e minore del 1930, quindi io qua gli devo andare a dire almeno 93. Vediamo un attimo. 5 1900. No, ma qua è proprio sbagliata la. Se non c'è pure la formula, perché se c'è un c'è un signori, ho sbagliato questo. Devo dire maggiore di questo è minore di quest'altro. Ecco, in realtà anche questo è interessante perché ti fa capire che se io sbaglio queste condizioni, che in realtà dovrebbero essere un aiuto in fase di immissione, rischio che l'utente qualsiasi cosa metta non ne avrà mai bene computer. Quindi sicuramente queste cose qua all'inizio saranno forse una grossa frustrazione, perché se uno non ha un po' di pratica, dice ma porca miseria, qualsiasi valore ti metto non ne avrà mai bene. In realtà io gli sto dicendo che deve essere maggiore di un numero che è più piccolo dell'altro e minore di un numero che è più grande dell'altro, per cui lui non me la fa beccare mai. Comunque su questo avremo modo di scontrarci più volte. Vediamo un po' se funziona. Non è per la peppa. Ok. Poi Mario Rossi 345 1931 e così via dicendo. I dati che io ho inserito lì, se apro la tabella, in realtà sono stati inseriti in questa tabella, d'accordo? E vedete che poiché avevo scelto la visualizzazione di dati estesa nella data di nascita, d'accordo? Io gliel'ho inserita come 5.5 del 95 di quello che è, e lui me la visualizza così, ma se ci vado a cliccare sopra lui mi fa vedere 5.5 del 91. Quindi quello è proprio il formato semplicemente che gli do. Ho visto tra messaggio di errore. Sì, messaggio di errore, gli posso dare un messaggio personalizzato del tipo data di nascita, che ne so, Ue Balengu, non è che si è rotta anche la tastiera. E stasera mi aspetto di tutto. Vabbè. Comunque, gli posso mettere un messaggio di errore che appaia in automatico nel momento in cui lui fa un errore. Ha visto che prima mi appariva un messaggio generico, dato non valido, gli posso mettere un messaggio personalizzato. Ora vi faccio solo vedere una maschera con un layout diverso. Notate bene che io sto facendo un'altra maschera sulla stessa tabella, nessuno me lo vieta. Ma queste volte invece che a colonne vado a scegliere tabulare. Vedete che questo mi fa vedere più record in una stessa pagina. Poi come andare a sistemare queste cose qua faremo una lezioncina veloce. Però comunque quello che mi interessa è che mentre qua io vedo più record in una sola maschera, in questa vedo un solo record all'interno della maschera. La differenza sostanzialmente dove la si sente? Quando il numero di campi sono tanti. Cioè se io ho nome, cognome, numero di telefono, posso anche mettere più record in una sola maschera. Ma se io ho nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, città, età, data di nascita, coniugato, tutta una serie di informazioni, capite che mi verrebbe una maschera con tantissimi campi uno a fianco all'altro. E a questo punto va tanto male usare Excel. In questo caso invece mi permette di vedere quella che in Excel sarebbe l'unica riga in maniera più ordinata, d'accordo? In maniera più agevole, perché una delle cose più odiose del Excel è quando sono tanti campi e mi sarà fare a destra, a sinistra, a destra, a sinistra per andare a beccare la colonna giusta. Qua invece devi mettere tutti lì. È chiaro bene? Ok. cellulare per far conoscere, si può ricaricare sul cellulare. Nome, cognome, telefono, data di nascita, come se fosse un foglio di Excel. Chiaro che se i campi sono tanti, quello va a destra e deve iniziare a scorrere a destra e a sinistra. D'accordo? Proviamo, quindi passettino successivo, vediamo come si crea un report. Ora, il report si crea nella stessa identica modo con il quale si crea una maschera. Quindi si va su Crea. Questa volta invece di andare nella sezione maschere, si andrà nella sezione report, si preme su creazione guidata. Attenzione signori, io non vi sto andando a far cliccare sulle altre voci, ma se voi volete provare a casa potete tranquillamente provarlo. Secondo me è più facile, mentre la tabella è meglio partire dalla struttura, perché bisogna definirla bene, ma master e report si può tranquillamente partire dalla composizione dei dati. Ma se voi a casa volete provare anche un'altra delle altre opzioni, liberissimi di farlo. Dal mio punto di vista, chi inizia ad usare Access o comunque chi non lo conosce benissimo, è meglio fare la creazione guidata. Poi a riparare anche le altre voci ci sembra bene. Quindi, creazione guidata report. La maschera, vedete che la finestra è la stessa di prima. Io gli metto tutti i campi per comodità. Ecco, pensate quanto sia importante invece in questo caso poter andare a selezionare soltanto alcuni dei campi. E ricordate che il report serve per stampare, dico bene? Ora, se io voglio fare un catalogo prodotti, ad esempio, nel catalogo prodotti non gli vado a mettere anche, sì, magari il fornitore glielo posso andare a mettere nel prodotto, però non gli vado a mettere, che ne so, il numero del codice che quel prodotto ha nel mio magazzino. Dico bene, penso che non catalogo dei prodotti. Quindi ripeto una volta di più che in quella finestra lì vi serve per scegliere le finalità, nel caso di prima del report, della maschera, in questo caso del report. Il report per un catalogo di prodotti non avrà il codice del magazzino. Invece il report che io do al magazziniere affinché questo mi acquisti i prodotti che mancano, avrà proprio il codice del magazzino e non magari il produttore. Avanti. Qui vi chiede di aggiungere un livello di gruppo. Il livello di gruppo è una cosina che tutto subito non vi farà esaltare, ma soprattutto gli utenti di Excel inizieranno a sbavare pensando a questa cosa qua. Perché? Perché gli utilizzatori di Excel, quando stampano tutta la tabella nuda e cruda. Se io invece ho la possibilità di raggruppare, guardate cosa succede. Immaginatevi una tabella fatta con i seguenti campi: nome, cognome, città, telefono. In realtà se i campi sono tanti e si vede ancora meglio, ma fermiamoci qua. L'utente di Excel che fa? Stampa tutta la colonna, tutta la tabella. E allora, ma se io lo voglio mettere in ordine di città, poco male, vado nella possibilità di ordinare, lui me li ordina per città. E se io li voglio ordinare per città e per cognome, vado nella funzione di Excel, ordino prima per città e poi per cognome, però tutte le voci mi appaiono tutte una vicino all'altra. Mi sentite? In Access invece cosa ti posso dire? Raggruppami ad esempio per città. E lui che fa? Mi mette Milano, nome, cognome, telefono. Torino, nome, cognome, telefono. Quindi sostanzialmente che fa? Piglia il campo che voi gli dite, ve lo tira fuori dalla tabella, e già, e quindi un campo di meno che vi ho pensato. E poi gli mette tutti quelli di Milano, tutti quelli di Torino, tutti quelli di Genova. Quindi vi permette proprio di andare a raggruppare. È chiaro? Quindi il gruppo toglie un campo dalla tabella e lo mette come sottoimpostazione. Raggruppa per quel campo, e magari fatemi l'esempio che io ho fatto alla Lamagna, raggruppa per quel campo, ma vi dà un'altra possibilità molto gustosa, che è quella, e qua gli utenti di Excel proprio inizieranno a vedere la barra che scende dalla botte, di fare ad esempio i subtotali. I subtotali per quel gruppo. Questo lo vedremo poi più avanti. Però ad esempio, una delle cose che hanno necessità di fare chi utilizza il database è di dire: ok, io ho tutto, vabbè, qua c'è il telefono, supponiate che ci sia un altro campo che è ad esempio fatturato. No? Magari questi sono i venditori della mia azienda, quindi nome, cognome e fatturato. Ebbene, la cosa che io voglio sapere è sì, ciascun venditore quanto mi ha fatturato, ma ad esempio di tutti i venditori di Torino quanto è stato il fatturato di Torino rispetto a quello di Milano, quindi il cosiddetto sul totale. Ebbene, questo io lo faccio fare un po'. Anche Excel. Sì, questo è una domanda da fare la scuola. Il suo totale di Excel è proprio. Ma quando si parla anche di query immediate? Sì. Query, perché io ho fatto una funzione select, cont where, poi. Sì, c'era una query. La subquery. Una subquery. Me ne trova a parte, quindi tu ti puoi fare il report, ma solo dalla subquery. Quindi sì. Avrai solo sul totale. Qua no? Qua lui ti fa vedere il dettaglio e in più ti mette il subtotale. Che tipicamente è proprio quello che si vuole quando si parla di questo tipologia di regola. Nella definizione di gruppo togli un campo dalla tabella e lo inserisci come su. No, come sottotitolo. Sì. E poi l'altra funzione in più è quella che ti permette di fare il subtotale. Questo lo vedremo poi più avanti. Perché invece mi interessa solo che voi iniziate a prendere confidenza con lo strumento. Poi nelle prossime lezioni andremo a continuare a dettaglio. Ora, qua non è che ci siano molti campi con i quali fare un gruppo. Proviamo il campo cognome. Vedete che lui vi fa vedere il cognome, che è una specie di sottotitolo, e poi sotto tutti i dati. Vado avanti. Mi chiede, qua non statevelo scrivere, leggete semplicemente quello che vi dice, qua vi chiede se volete ordinare per un campo anziché per un altro, anziché per due. Vi chiede il layout e l'orientamento della pagina, anche qua fate delle prove. Come lo volete addobbare e il nome che gli volete dare. Quello che viene fuori è una cosa di questo genere, pronto per essere stampato. Vedete che lui vi ha raggruppato per cognome. Se lo voglio vedere un pochino meglio, andiamo a mettere un altro Rossi. Rossi, Claudio 333, non mettiamo niente. Rossi, Giuseppe 345, non mettiamo niente. E poi Carlo Zuccala 322. Ok. Ecco, guardate cosa succede se io rilancio il report. Lui mi ha preso tutti i dati che io gli inserisco adesso. Ok? Vabbè, qua forse l'ho fatto per nome, non per cognome. Comunque, insomma, quello che dovrebbe succedere, se sceglievate il cognome anziché il nome, era quello che mi metteva prima tutti i Rossi, poi tutti Zuccara e poi tutti gli altri. Ok? Chiaramente i nomi erano fatti di più. Ah, perché ho invertito semplicemente il cognome e posto il nome. Vabbè, è venuto bene nel Zuccalà, dove si vede che Zuccalà aveva messo sia Carlo che Vittorio, d'accordo? Immaginatevi quando i campi di record sono tanti, chiaramente avete tutti quelli con un cognome, poi tutti quelli con l'altro cognome, eccetera, eccetera. Ecco, qua potete iniziare a gustare l'utilizzo di Access. Perché l'utilizzo di Access per cose che vi permette. Una volta che io imposto il mio report, anche se vado ad aggiungere dei dati, non mi devo più preoccupare di quale sarà la stampa, perché la stampa sarà giusta. E questa, come vi dicevo qualche lezione fa, è una delle enormi difficoltà che hanno tutti gli utilizzatori di Excel. Perché gli utilizzatori di Excel tutte le volte devono stare lì a nascondere le colonne, scoprirle, rimpicciolire la colonna, riallargarla, creare lo scenario di stampa, l'area di stampa, tutte queste varie cose. Probabilmente chi utilizza Excel si ritroverà in queste parole. Viceversa, chi usa Access queste difficoltà non ce l'ha. Perché? Perché si crea un report. Anche se poi lui nel tempo lo va ad alimentare nei dati, quando schiaccia l'anteprima, quindi ha il consenso, lui lì da conto. Dovete solo poi andare a stampare. Quindi io per esempio posso anche evitare di inserire dei dati su visualizzazione struttura. Cioè non su visualizzazione struttura. Si crea la tabella, si inseriscono tutti i dati. Sì, ma qui invece bisogna inserire o nella tabella o nel master, che tanto la maschera va dall'interno. Quindi una mia scelta se inserire normalmente la tabella o nelle maschere. Mi, nel senso che nel momento in cui tu sei colui che utilizza e inserisci i dati, allora sì, ragionevolmente la tua scelta. Sebbene io indirizzi sempre verso la maschera, ma perché la maschera ha tutta la serie di cose positive che la faccio vedere. Nel momento in cui invece tu il database lo crei per una terza persona o per delle terze persone, la scelta obbligata per costoro è quella di andare ad inserire e di lavorare i dati sulla maschera. Perché permettere alle persone di andare a lavorare direttamente sulla tabella è controconducente. Soprattutto quando inizia ad avere una serie di tabelle collegate tra di loro. Ecco, ma quando bisogna creare per esempio delle query, lo posso fare sia sulle maschere che sia sulle tabelle? Già mai, perché la maschera in realtà è soltanto una visualizzazione della tabella. Quindi la query tu la puoi fare solo o su una tabella o sulla tabella. Sì, questo lo so. Non sulle maschere, non su grafico. Perché le maschere sono per inserire i dati nella tabella, quindi tu devi interrogare la tabella, i report servono per stampare la tabella, e quindi tu devi fare. Qualsiasi dato nuovo lo inserisco dalla tabella originaria. Esatto. E automaticamente mi aggiorna tutte le altre maschere. Maschere e report. Automatico. Certo. E salto da una parte all'altra. Esatto. Ed è questo proprio una cosa molto interessante di Access, no? Perché se io... Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Perché se io vado nella maschera, nella tabella persone, e qua vado ad inserirmi un Pippuzzo Rossi, d'accordo? Quindi nella maschera chiudo la mia mascherina, lui tra l'altro non mi chiede nemmeno di salvare, quindi sono anche più sereno, rilancio il report e lui, Pippuzzo Rossi, eccolo qua. E ripeto, rispetto all'utilizzatore di Excel, questo è un enorme vantaggio, perché è già lì. Oltretutto una cosa interessante è che io mi posso fare tanti report sulla stessa maschera che possono prendere di volta in volta soltanto uno, due, tre, quattro campi, tutti i campi, a seconda della necessità. Quindi avrò il report per il magazziniero, il report per catalogo prodotti, il report quello che è, e di volta in volta io vado ad inserire o a togliere i miei prodotti, i miei personaggi, i miei quello che voglio, e il report sarà sempre aggiornato, perché semplicemente va a prendere l'ultima situazione. Così viene fuori un report di tutte le persone, o personaggi che ho messo nella tabella. Si farà quelli che ancora non abbiamo visto. E se io ne voglio soltanto alcune, o per esempio quelli della serialità? Oppure se voglio fare un report per persone. Cosa? Diciamo che domani poi c'è sempre quello. Quindi poi conviene lavorare sempre sulle tabelle per creare le query. Però, ripeto, la query tu per forza la crei su una tabella. Quindi il giro del fumo. Il giro del fumo che avevamo intravisto già nelle lezioni teoriche, ma giustamente adesso vengono fuori le domande. Il tutto parte da una o più tabelle, poi dopo vedremo le più tabelle, e in tutte queste lezioni teoriche abbiamo detto c'è la tabella, ridondanza di campi, bla bla, le divido, per cui partiamo da una o più tabelle. Su questa io faccio una o più query. Le maschere le posso fare o sull'intera tabella, che è quello che ho fatto adesso, oppure quando il database inizia a diventare grosso, non ha neanche più tanto senso farlo sulla tutta la tabella, bensì su una query. Analogamente il report la posso fare o sull'intera tabella o sulla query. Non un report sulla maschera, non una maschera sul report, ma sempre così. Quindi il caso che noi facevamo all'epoca delle guide telefoniche, non posso molto dire, ma comunque sempre la stessa truppa. Quando ci sono due telefoniche, io ho un unico grosso database con tutte le tabelle delle persone, delle altre, bla bla bla. Io telefono al call center del 119 o chiamo e dico senta, ho cambiato l'indirizzo. Vabbè, quello fa una query, va a tirare fuori soltanto i miei dati e tramite la mia maschera che si basa sulla mia e si basa sulla tabella va a modificare i miei dati. Quando distribuisco la guida telefonica vado a fare una query su Torino. E quindi dal calderone fanno la query Torino, tirano fuori la guida telefonica, perché non avrebbe senso fare un'unica guida telefonica con tutti i lavoratori in Italia. Quello lo fanno il suo CD-ROM. Sì, oppure se ho pagine gialle o su pagine bianche. E quando andate su pagine gialle o pagine bianche che inserite il nome dell'azienda, cosa state facendo? Una query. E dove la state facendo la query? Una tabella. Una tabella. E tramite che strumento? Una maschera. Quindi state dando una maschera, tramite la maschera state facendo una query sul database e vi viene fuori che cosa? Infatti vi viene fuori una videata dove voi non potete modificare i dati, che è appunto un report. non è stampato, ma si può. Sì, come, magari poi c'è qualche pubblicità, però voglio dire, viene il report con il nominativo della persona o delle persone che state cercando. D'accordo, signora? Sì, quando Orwell parlava del grande fratello di database, del genere, sappiate che siamo infregnati di database ovunque. Ovunque voi andiate, vigilate, ci siamo dei database. I cartelloni che vedete pubblicizzati in strada sono dei database, quelli luminosi. È tutto un database. Andate a comprare a fare la spesa, usate il database. Passate sotto il telepass, database. Andate in banca, database. Tutto. Tutto un database. Tristezza. Questo è anche più nuovo. Sono pronto. No, perché almeno lo stesso dell'ordine, però. No, so, il concetto che siamo diventati tutti, tutto è tutto di database. Sì, poi lì si va sulla filosofia, non ne voglio fare. Mi limito a dirvi, guardatevi in giro con occhi diversi, perché evidentemente è veramente tutto un database. Sì, noi spesso siamo dei dati. Sì, è quello, poi andiamo alla filosofia. Non avevamo neanche detto, mi pare che quando mi trovo dei sulle maschere potremmo mettere anche un pulsante se di query. Sì, no, per carità, ma ancora andiamo a fare la linea. Ok, signori, ci siamo? È più chiaro così il discorso? Allora, a casa cosa vorrei che provaste a fare? Allora, la tabella della volta scorsa, che è la tabella persone, arricchitela del campo città del campo città. Compreso data di nascita. E data di nascita se non c'era la volta scorsa. Non c'era. Non c'era la data di nascita. Vabbè, perché per cui ci fosse la tecnologia, no, se non c'era la tecnologia. Quindi arricchita del campo città, se non c'è dubbio, e se non c'era la volta scorsa, data di nascita. Nella data di nascita andate ad impostare il valido se. Create, ok, e questo è la prima parte. Seconda parte, create due maschere su quella tabella. Una con il layout tabulare, l'altra con il layout colore. Che è sostanzialmente quello che abbiamo fatto qua stasera e che vi fa apprezzare il discorso del tutti i campi in un'unica tabella oppure tanti record in un'unica massa. Create uno o più report sulla tabella. Eventualmente aggiungendo il gruppo città. Quindi sostanzialmente magari su uno dei report mettete città come gruppo, quindi notate proprio questo argomento negli altri. L'indirizzo email può essere una chiave primaria, dato che la risposta qual è sempre? Dipende. Perché dipende? E qua sarà un altro grosso sforzo di questo corso. Capire che dipende sempre dal contesto. Perché dipende? Provate a pensare, lui mi ha chiesto, La chiave primaria può essere una chiave primaria. La, no. L'indirizzo mail può essere una chiave primaria. Se la usi in mezzo a cambiare. Perché ogni mail può cambiare. Ne posso avere più di una. Ogni mail può cambiare. Allora, ne posso avere più di una di mail, può essere ragionevolmente una domanda o una risposta. Perché effettivamente. No, esatto, dipende dal contesto. Potrebbe succedere che magari io attribuisco due email alla stessa persona, per cui vado a creare la ridondanza di dati. Perché metto email 1, email 2 e poi storio, un canale, numero di telefono, indirizzo, bella ridondanza di dati. Quindi dipende dal contesto. Perché se invece io la uso in un contesto aziendale, l'indirizzo di email è unico per ciascuna persona. Capito come dipende? Dipende dal contesto. Oppure, quindi la risposta è giusta nel caso in cui, per esempio, io raccolga gli indirizzi mail su email. Perché magari uno può entrare due volte sullo stesso sito, registrarsi e darmi di volta in volta due numeri, due email diversi. Nel caso aziendale invece va bene. Oppure, sto facendo il database delle persone iscritte al primo corso di informatica. Nel secondo ci sono anche. Non è detto che tutti abbiano un indirizzo email. Qua io lo do abbastanza per scontato, perché se uno mi viene a fare un corso di secondo livello, do abbastanza per scontato che l'indirizzo email ce l'abbiano, perché grosso modo fa parte ormai abbastanza della nostra quotidianità. Ma nel corso del primo livello non l'ho assolutamente risultato, anzi, mi aspetto che molte persone non ce l'hanno. E allora non è un indirizzo, non è una chiave primaria. Quindi, attenzione sempre, quando decidete di che cosa fare con una chiave primaria o altro, di contestualizzare. Dipende, dipende dal contesto. Nel caso della società va bene, raccolgo i dati da internet, non va bene perché rischio la ridondanza. Raccolgo gli indirizzi email di, che ne so, di genere delle persone per strada, il bambino è sempre non ce l'ha. Quindi dipende da questo. D'accordo? L'indirizzo email è però una cosa che posso usare, quindi vado al rilancio, è la maschera di input. Perché vi ricordate che la maschera di input, vi avevo detto, mi permette di scegliere la sequenza di lettere e numeri, in realtà mi permette anche di andare a definire delle regole. Quali sono le due regole dell'email? Beh, la prima è la chiocciola e la seconda è il qualcosa punto 1, 2 e 3 lettere almeno, giusto? Quindi nome. Ecco che come maschera di input io gli posso impostare proprio questo. Cioè se l'utente non mi mette qualcosa, chiocciola, qualcosa, punto, almeno 3 lettere, almeno due, almeno due, almeno due, almeno due, almeno due, almeno due lettere, e con quelle possono essere una impostazione della maschera di input. Compitino, provate a pensare proprio ad una maschera di input. A questo punto uno sarà più indietro, perché questa maniera che spiega non l'ho fatto pensare. Cercate per esempio su internet, fate vedere se su internet trovate una maschera di input per gli indirizzi mail. E poi verificate. Non è importante se non ci riuscite, perché mi rendo conto che non l'abbiamo vista, ecce. Però provateci a casa. Ok, signori? Allora, io con questo finirei la serata. Aspettate di scapparmi. Allora, vi ripeto, la prossima lezione, mi raccomando, non venite. Ci vediamo poi il 25. Fate i compitini. La prossima lezione, io volevo partire con le query. Quindi impiegherò un po' di lezioni per vedere le query. Penso che anche per le persone dell'anno scorso le query, un ripassino ci sta bene. Quindi andremo a vedere le query semplici, le query parametriche, le query di aggregazione, le query di calcolo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, in frammezzato, ci metterò le relazioni di più tabelle. Ora è chiaro, signore, che più voi prendete confidenza con lo strumento, meno difficoltà avrete dopo, perché sarà tutto qualcosa di già visto, ok? E per favore, queste due settimane studiatevi tutti i concetti teorici che abbiamo visto. Se qualcosa non è chiaro, non vi fate problemi, nessuno vi giudica, nessuno, scrivete nel gruppo. Guardate, non ho capito, a che diavolo serve la chiave primaria, e lo si vi spiega. Non vi fate regole, siamo tutti qua per imparare, non vi fate problemi a scrivere, il gruppo l'ho fatto per quello. Ok? Ti mando la memoria del gruppo. Una domanda su buonasera a tutti, ci vediamo tra due settimane.